in primo piano. Buongiorno Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno Irene, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora diamo un'occhiata ai giornali di questa mattina, ci sono parecchie notizie, non c'è uniformità, anche se ovviamente la notizia che avete ascoltato nel giornale radio da Adriana Fracchia della nomina dei 20 direttori di musei occhieggia un po' in tutte le prime pagine, ma non tutti i quotidiani questa mattina fanno la stessa scelta, e questo ci dà l'opportunità di parlare, di segnalarvi diversi argomenti. Ad esempio la stampa sceglie di dedicare il suo titolo principale alla vicenda umana dei profughi. Perché? Perché ieri sono stati diffusi nuovi dati da parte della valutazione appunto delle richieste di asilo e della pressione a cui tutta l'Europa, non solo il Mediterraneo, non solo il Canale di Sicilia, ma anche la frontiera orientale d'Europa sono soggetti in questo momento. Record di richieste d'asilo in Germania, sono previste 750.000 richieste per il 2015. E naturalmente poi questa stessa notizia viene declinata anche in modi diversi, lo vedremo su altre testate a seconda che si voglia darle o meno una coloritura politica. Resta il dato allarmante, preoccupante di questa massa di persone che fugge dalle guerre, fugge dalle devastazioni, fugge dall'Africa e dall'Asia cercando una vita migliore o quantomeno solo di sopravvivere. Tutti i giornali, ripeto, ne parlano con maggiore o minore evidenza, la stampa dedica questo suo titolo principale. Sempre dalla stampa, i direttori dei musei, con queste polemiche che cominciano sui direttori stranieri, 7 su 20 vengono dall'estero, però Franceschini, appunto il ministro, che ha detto siamo i primi al mondo a farlo, e ci sono poi nelle pagine interne dei giornali posizioni pro e contro. La più ripresa, la più segnalata un po' su tutti i quotidiani è quella di Vittorio Sgarbi. Poi l'adozione, ancora dalla stampa, il procedimento di adottabilità avviato per il figlio di Martina Levato, con questo permesso però di vedere il bambino, non di allattarlo ma di vederlo, in attesa che il procedimento di adottabilità, che non è un procedimento rapido né semplice, faccia il suo corso. Il Giorno ha come titolo principale la rivoluzione dei musei. 20 nuovi direttori, 7 sono stranieri, il Giorno ci ricorda già dalla prima pagina che 10 sono donne, tra l'altro, molti sono giovani, un tedesco va agli Uffizi. Le interviste annunciate dal Giorno nella sua prima pagina, Sgarbi che stronca il ministro, invece Achille Bonitoliva che lo promuove. Nella fotonotizia, cioè la grande foto che abitualmente nei quotidiani occupa buona parte della prima pagina, nella fotonotizia del Giorno la stretta di mano tra Merkel e Tsipras, una stretta di mano avvenuta non ieri ma qualche giorno fa, e una didascalia un po' polemica, un po' puntuta. Mi compro la Grecia. A cosa ci si riferisce? Al fatto che ieri è stata decisa la cessione di 14 aeroporti appunto a un greci, a una società tedesca, e quindi questo poi innesca anche delle polemiche sul cosiddetto salvataggio. D'altra parte sappiamo benissimo che la Grecia ha un bisogno di liquidità, di ridurre le spese, e quindi si fanno avanti i vari compratori, in questo caso i tedeschi. È chiaro che dopo tutte le polemiche a cui abbiamo assistito nel mese di luglio, Grexit, cioè uscita della Grecia dall'euro, Grexit sì o Grexit no, bene, questo tipo di notizia in qualche modo fa scalpore. Vediamo qualche altro quotidiano, anche per il Messaggero, quotidiano romano, la svolta dei musei è il titolo principale. Manager stranieri, nominati appunto i nuovi responsabili delle nostre più importanti istituzioni. Merita ricordare, lo faremo magari poi segnalando qualche articolo alle pagine interne, merita ricordare che questo è il secondo passaggio di un piano di ammodernamento avviato con il governo precedente, proseguito con questo governo, avviato quindi con il governo Letta, proseguito con il governo Renzi, appunto per una gestione differente dei musei, con una possibilità quindi di mettere a profitto anche i visitatori in altre aree che non siano soltanto il biglietto d'ingresso, ma ad esempio librerie, ristoranti e aree di trattenimento in qualche modo dei visitatori, così come usa peraltro in molti grandi musei di tutto il mondo. Dal Messaggero una notizia economica, il crollo della cassa integrazione. E poi, nello stesso titolo, manovra, assegni per i disagiati. Uno spiraglio, sembra di capire, che perché nella legge di stabilità, quella che dovremo varare, che il Parlamento, il Governo e il Parlamento dovranno varare nell'autunno, ecco, si apra appunto una possibilità per il reddito cosiddetto minimo di cittadinanza. Qui, secondo le anticipazioni che riporta il Messaggero, si tratterebbe di un'integrazione, di una piccola integrazione per chi ha dei redditi particolarmente bassi. Cambiamo il giornale, passiamo al Corriere della Sera, che anche dedica pure il suo titolo principale alla questione dei musei, ma già il titolo è una valutazione: strappo sui musei, sono stranieri 7 direttori su 20, polemiche sulle nomine nei grandi poli culturali italiani. E poi una notizia che rimbalza da Repubblica, da un'iniziativa di Repubblica, alcune lettere che sono arrivate a Repubblica e oggi si espande, dilaga un po' in tutti i giornali, cioè le polemiche seguite al procedimento di assunzione avviato dalla riforma della scuola. La legge approvata di recente, che abbiamo chiamato per mesi della la buona scuola, ebbene, in questa norma, nel concorso per le cui prenotazioni per le assunzioni dei precari, dei professori precari, si sono chiuse proprio prima di Ferragosto, in questa legge è anche deciso che non si possa rifiutare il posto che viene assegnato. L'insegnante deve segnalare la preferenza di collocazione nel territorio italiano, ma non può rifiutare poi il posto che gli viene assegnato. Il Corriere in qualche modo riprende il tema con la Repubblica dei ricorsi per il caos scuola, il concorso per presidi che dura dal 2011, i prof che non insegnano le materie richieste, e proprio su Repubblica ancora naturalmente in evidenza questo tema, per quanto riguarda appunto le polemiche, con le pagine interne in cui vengono ospitate pareri pro e contro lo spostamento. Tra i pareri contrari allo spostamento c'è la segnalazione che lo stipendio di un insegnante, come sappiamo in Italia, non è altissimo, non consente facilmente di spostarsi. Ci torneremo magari nei blocchi successivi. Volevo darvi qualche altra indicazione dalle prime pagine prima di fermarci per le previsioni del tempo tra qualche minuto. Tra l'altro, di questa vicenda delle polemiche seguite agli spostamenti, i possibili spostamenti delle precari che vengono assunti con la legge sulla scuola, si occupa anche Mario Secchi in un commento sul Foglio di oggi. Commento polemicamente intitolato "Lavorare stanca", dice: in tutto il mondo non si sfugge al principio che le cattedre sono lì dove stanno gli alunni, ma in un'Italia allergica alla mobilità, al momento di assumere i precari si urla alla deportazione. La situazione è grave ma non seria, così sintetizzano sul Foglio questo commento di Mario Secchi. Vediamo qualche altra testata. Avvenire decide di dare spazio alla notizia che vi segnalavo sulle privatizzazioni ateniesi. Atene si taglia le ali, in riferimento appunto all'acquisto da parte dei tedeschi, di una società tedesca, degli aeroporti greci. Via alle privatizzazioni, 14 aeroporti vanno in gestione a una società tedesca per 40 anni. Poi qui anche su Avvenire, musei, rivoluzione straniera è uno dei titoli principali. Sbarchi da record ma non in Italia, secondo i dati Frontex. E qui torniamo a parlare appunto dei profughi che premono sulle frontiere d'Europa. Alcune segnalazioni invece di carattere economico dal Sole 24 Ore di oggi. Il nostro titolo principale è dedicato alle vicende delle borse, soprattutto per lo scossone della borsa cinese. Cina, borsa sotto tiro, Shanghai perde il 6%. La Banca Centrale Cinese in azione, Europa e Stati Uniti limitano le perdite. E vedremo tra un attimo come si può spiegare questo fatto che la Banca Centrale Cinese è intervenuta con liquidità proprio per sostenere il mercato, ma l'effetto è stato esattamente contrario. Titolo centrale nella nostra prima pagina: cassa integrazione a luglio meno 27%, è una buona notizia, lo è sicuramente, il fatto che diminuiscano le ore di cassa integrazione. Quanto è buona questa notizia? Beh, qui bisognerebbe aprire un dibattito che potrebbe durare anche qualche ora, non pochissimi minuti come nel nostro caso, ma diciamo in estrema sintesi è un buon dato. Poi lo spiega Claudio Tucci oggi su Sole 24 Ore, altri analisti ci tornano su altri quotidiani, è un buon dato, va però inserito con i dati che non erano così entusiasmanti proprio per la creazione di nuovi posti di lavoro ed erano riferiti ai mesi precedenti. È un, diciamo, un dato abbastanza positivo, va letto positivamente, va inquadrato però in una situazione generale che non è tutta ancora positiva, non è tutta ancora di rilancio dell'occupazione. Sul Sole 24 Ore di oggi poi anche un'altra notizia che non viene richiamata dalla prima pagina ma che vi voglio segnalare perché si può in qualche modo legare all'andamento, alla congiuntura, all'andamento economico del momento: scatto dei nuovi prestiti nel 2015, c'è stata un'inversione di rotta, lo spieghiamo nelle pagine di Impresa e Territori, un'inversione di rotta dopo 6 anni consecutivi di caduta nei prestiti, perché nel primo semestre di quest'anno si sono visti dei volumi in crescita del 18%. Come avverte il collega Orlando, per riagguantare il livello che avevamo di prestiti prima della crisi ci mancano circa un centinaio di miliardi, quindi, scrive Orlando, non proprio briciole, ma se parlare di ritorno alla normalità sul fronte del credito è ancora prematuro, vi sono tuttavia fondati motivi di ottimismo. I dettagli di questa segnalazione sul Sole 24 Ore di oggi in Impresa e Territori. E noi adesso chiedo conferma a Peter Bescapè che mi dice possiamo farlo, sì, allora ci fermiamo, grazie Peter, ci fermiamo e ascoltiamo le previsioni del tempo, a tra poco. In primo piano. E ancora buongiorno da Mauro Meazza, Peter Bescapè che mi assiste questa mattina in regia, mi ha sgridato perché ho annunciato le previsioni del tempo, ma in questo blocco invece non erano previste le previsioni del tempo, allora per farmi perdonare da Peter che è un accanito milanista gli leggerò il titolo della Gazzetta dello Sport, con una certa fatica perché come forse alcuni ascoltatori sanno io sono per l'altra squadra di Milano. Milan, Soriano e Ibra, Silvio ci crede, quindi colpi di mercato che si preparerebbero per il Milan, che peraltro sta facendo un ottimo precampionato. Vedremo da sabato poi come va. Ovviamente Peter scuote la testa perché sa che questa è una vera gufata, come si dice in gergo. Lasciamo la Gazzetta dello Sport, anche se potremmo parlare a lungo, diciamo, delle vicende di mercato e non solo. Ieri, tra l'altro, un preliminare di Champions League importante, Keita della Lazio ha segnato il gol con cui la Lazio si è imposta sul Bayer Leverkusen nella gara di andata. Ora si vedrà se, appunto, come andrà il ritorno, se riuscirà ad avere ragione dei tedeschi in questo caso. Stavamo parlando di economia prima di fermarci, allora restiamo per qualche istante sul Sole 24 Ore perché vi dicevo della Cina. La Cina, i mercati cinesi che hanno perso parecchio, il 6% ieri. Una fuga di capitali che affonda le valute asiatiche, spiegano Vito Lops e Maximiliano Cellino i motivi di questi grandi movimenti. Settimana scorsa la svalutazione, ieri il crollo dei mercati, e appunto riferisce Lops che la mossa della banca centrale, che è intervenuta ieri, la banca centrale cinese, con una forte emissione di liquidità, non ha portato a un sostegno ai mercati come era nelle intenzioni, perché invece ha innescato timori di una riduzione della liquidità legata appunto all'uscita di capitali dal paese. Perché uscita di capitali? Perché in questo momento diventerebbe più conveniente ad esempio investire sul dollaro, che potrebbe avere un imminente rialzo dei tassi e quindi la valuta diventa più attraente. Il dettaglio dell'andamento dei mercati sul Sole 24 Ore di oggi nella pagina 3, con anche poi le analisi, appunto, come vi dicevo, di Maximilian Cellino e anche i riflessi sui paesi emergenti che sono affidati a Gianluca Di Don Francesco. La CIG, la cassa integrazione, con il calo del 27%, vi dicevo, buona o cattiva cattiva notizia. Qui è difficile prendere una posizione che sia un sì o un no, diciamo è sicuramente una buona notizia, va appunto, come si segnalava prima, inserita nel quadro complessivo, come fa appunto il collega Tucci, spiegando che è un primissimo timido segnale positivo sul fronte del lavoro, che non significa però nuova occupazione, visto che la crescita economica dell'Italia continua a non essere entusiasmante. Nel 2016, e ieri appunto Moody's ci ha bacchettato dicendo che ci fermeremo poco sotto l'1%, e in Eurolandia nel complesso appunto il prodotto interno lordo aumenterà dell'1,5%, quindi il nostro paese continua a viaggiare su livelli più bassi. Negli ultimi tempi, poi, riferiamo sempre sul Sole 24 Ore, l'Istat, l'Istituto di Statistica, sta fotografando un mercato del lavoro che sta ancora in affanno. A giugno gli occupati sono calati di 22.000 unità rispetto al mese precedente. Vi ho detto della notizia positiva dell'aumento del credito, delle erogazioni di credito, di cui appunto riferiamo oggi sul Sole 24 Ore, e vorrei parlarvi adesso di un altro aspetto che occuperà poi le nostre settimane autunnali a lungo, la legge di stabilità, insomma la finanziaria. Perché occuparcene? Perché vorremmo cominciare a capire se arriveranno nuove tasse, verranno ridotte le tasse, ci saranno dei tagli, come insomma andremo a disegnare il nostro futuro delle attività economiche, ma anche poi della vita quotidiana dal 1 gennaio 2016. Allora, oggi sul Sole 24 Ore si parla di 5-6 miliardi di tagli di risparmi, insomma, che dovrebbero venire da sanità e ministeri, ma si parla anche, lo riferisce appunto Marco Rogari sul Sole 24 Ore, di un riordino delle cosiddette tax expenditures. Il termine inglese sta a indicare appunto gli sgravi, le agevolazioni che vengono assegnati ai cittadini, alle persone fisiche, alle imprese in materia fiscale. Lì si aspettano 1 miliardo 200 milioni, 1 miliardo e 300 milioni. Dovrebbero arrivare anche ulteriori strette su altri interventi di tipo assistenziale, e poi riassetto degli incentivi alle imprese e dei sussidi per il trasporto. Lasciamo il Sole 24 Ore per tornare sul Messaggero, perché come vi annunciavo nella prima parte, proprio il quotidiano romano è quello che segnala la possibilità di un intervento a favore dei più disagiati nella legge di stabilità. Piano per i disagiati, assegni fino a 780 euro al mese, è il titolo che trovate oggi a pagina 3 del Messaggero. Il governo pronto a stanziare 2 miliardi e 400 milioni per integrare i redditi delle fasce più deboli. Michele Di Branco ci spiega che questa è una mossa con cui il governo riapre il cantiere del reddito minimo garantito, misura di cui si è discusso parecchio. Anche perché appunto portata avanti in questi anni dal Movimento 5 Stelle come richiesta, e poi appunto discussa in più sedi, con questa riapertura di cantiere, così come la descrive Di Branco, appunto nonostante le molte questioni che ci sono da affrontare con la legge di stabilità, Matteo Renzi punta a dare una risposta al dramma dei circa 5 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà. L'ipotesi che si sta studiando, per la quale sarebbe già stata individuata una copertura da 2 miliardi e 400 milioni di euro, è garantire un sussidio capace di riportare il beneficiario sopra la soglia di povertà assoluta. Vale a dire quindi che per un reddito inferiore a 980 euro per una famiglia con due figli, l'assegno massimo che verrebbe riconosciuto arriverebbe a 780 euro al mese. Ripeto, non c'è niente di ufficiale. Sole 24 Ore, così come il Messaggero di oggi, ragionano su anticipazioni, piani allo studio, anche abbastanza delineati nei ministeri, ma che poi prenderanno corpo ovviamente nel mese di settembre. Sempre sul Messaggero anche l'ipotesi che era stata avanzata dal presidente INPS Boeri di dare degli aiuti a coloro che hanno più di 55 anni e si sono ritrovati senza lavoro. Merita segnalare qualcuno dei vostri SMS che intervengono, diciamo, polemicamente sulle nomine di direttori stranieri ai musei, in diversi dite, beh, vorremmo anche dei sindaci, dei politici stranieri. Devo dire, l'utilizzo appunto di questi stranieri, di questi esperti stranieri nelle nomine fa discutere un po' su tutti i giornali. Prendo dal Corriere della Sera, ma davvero potrei pescare oggi da qualsiasi testata, si segnala nelle pagine interne 10 donne a capo dei musei, intanto qui appunto questa parità di genere non mi sembra da trascurare, e poi ancora il rientro dei cervelli, perché ci sono 4 italiani che rientrano in Italia appunto per occupare questi posti di direttore dopo aver ricoperto incarichi analoghi in diverse parti del mondo. Sul Corriere della Sera il ministro Franceschini spiega così le sue scelte, dice, gli chiede Paolo Conti, ma non è esterofilia? Dice, ma rispondo citando la recentissima nomina di Gabriele Finaldi che si insedierà alla direzione della National Gallery. Nessuno sulla stampa britannica ha parlato di un italiano, ma di un bravo manager che ha contribuito alla modernizzazione del Prado come vice direttore. Quindi, dice Franceschini, c'è oramai una consuetudine di utilizzare manager capaci in questo campo da qualsiasi parte provengano, e in questo modo appunto anche l'Italia si è allineata a questa consuetudine. Un'altra delle polemiche a cui il ministro risponde è la disneyizzazione, il termine non è magari felicissimo, ma insomma basta di indicare che si vuole un po' trasformare i musei in Luna Park. Qualcuno, il ministro, l'accusa di voler disneyizzare il sistema museale italiano, è la domanda di Paolo Conti, e Franceschini taglia abbastanza corto, dice: sono polemiche tardo-ideologiche, l'ho detto tante volte, tutti i maggiori musei del mondo, pubblici e privati, si occupano di tutela, formazione, ricerca scientifica e anche di marketing per ottenere risorse da destinare appunto a formazione e ricerca. Non si capisce perché si debba scegliere tra la tutela e la valorizzazione. L'80%, qui il discorso del ministro si fa interessante, l'80% dei 400 musei italiani non ha un bookshop, cioè una libreria, insomma un posto dove vendere il catalogo piuttosto che altre pubblicazioni, altri supporti di qualsiasi tipo. Spesso nei musei internazionali vengono vendute anche, che so, matite, gadget di diverso tipo, proprio in questi bookshop, in queste librerie. Solo 4 dei più grandi, dei 400 musei italiani hanno un ristorante, e anche qui appunto qualche purista potrà storcere il naso, però effettivamente la presenza di un punto di ristoro serve anche a trattenere il visitatore, ad invogliare magari le famiglie, ad esempio, a fermarsi di più presso i musei. So bene che i funzionari del ministero che hanno diretto i musei l'hanno fatto con grande professionalità e poche risorse. A loro sono grato, ma serviva un salto di qualità per adeguarsi agli standard dei grandi musei internazionali. Queste le parole del ministro Dario Franceschini, che è ministro dei beni culturali e appunto che difende la sua scelta di nomina al vertice dei maggiori musei italiani anche di personalità straniere, non solo appunto di italiani, personalità non provenienti naturalmente in quanto stranieri come dire, dal percorso fatto all'interno dei musei stessi. Vi voglio segnalare in questi pochi minuti che ci mancano prima di ascoltare la viabilità. Questa volta sì, chiedo conferma a Peter. Ecco, questa volta non ci sbagliamo, parleremo di viabilità. Voglio segnalare la circostanza che domani si aprirà il meeting di Rimini. Il meeting di Rimini è un po' il primo appuntamento politico della stagione, della ripresa, al meeting di Rimini Avvenire, come sapete, quotidiano che si dichiara di ispirazione cattolica, quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, dedica anche uno speciale di 8 pagine, lo trovate al centro di Avvenire oggi in edicola, ma sono diversi i quotidiani che ovviamente si occupano della circostanza, anche perché al meeting ci sono poi diverse personalità politiche e culturali che partecipano, e quindi c'è sempre una notevole attenzione da parte dei giornali, non solo dei giornali, nel seguire lo sviluppo. Allora, lo speciale di Avvenire su tutto il dettaglio del meeting, tra l'altro da questo speciale apprendiamo che si parlerà ad esempio anche di Islam e di libertà di Costituzione, proprio in uno degli incontri del meeting, ma da altri giornali poi invece possiamo ricavare l'elenco degli partecipanti attesi, tra cui Monica Maggioni, di recente nominata ai vertici della RAI, e lo stesso Matteo Renzi, che l'anno scorso invece non era andato al meeting, aveva dato forfè. Si occupa del meeting Repubblica, ad esempio, meeting al via col pieno di sponsor, ci si preoccupa anche dei costi appunto di questa manifestazione, che sono imponenti. 14 aziende versano 3.600.000 euro, oltre la metà del budget. Sono modesti invece, riferisce Repubblica, i contributi di enti pubblici. Domani la partenza all'insegna di un verso del poeta Luzzi. Nel programma ci sono Renzi, ci sono 5 ministri e anche Bertinotti. Questo la segnalazione di Repubblica per quanto riguarda appunto l'annuncio del meeting di Rimini, manifestazione annuale di Comunione e Liberazione, del Movimento Cattolico Comunione e Liberazione, che però segna anche, come vi dicevo, l'avvio un po' della stagione politica, con i primi confronti tra i vari leader appunto in questa occasione del meeting. Tutto questo sulla Repubblica. Restando su Repubblica in questi ultimi secondi, una segnalazione interessante e su cui meditare: CGIL abbandonata da giovani e precari, perse 700.000 tessere. Un rapporto interno della Confederazione conferma il crollo degli iscritti al sindacato rispetto alla fine del 2014. Soffre in tutte le categorie e aumenta il peso dei pensionati. Lo riferisce Matteo Pucciarelli oggi con un dettaglio di dati proprio su Repubblica. Ma adesso è il momento del traffico. In primo piano. Allora, bentornati da Mauro Meazza, ancora una buona giornata da parte mia. Ultimo blocco di segnalazioni dai quotidiani che trovate questa mattina in edicola. Una notizia che sta un po' dovunque è il fatto che da oggi si può andare in due in motorino anche se non si hanno 18 anni. E allora, poiché sul punto, scusate la partigianeria, al Sole 24 Ore il collega Maurizio Caprino è uno dei più precisi in assoluto, vi voglio segnalare appunto l'articolo che trovate oggi all'interno delle pagine di Norme e Tributi, perché spiega esattamente i termini di questa innovazione, di queste modifiche al codice della strada. Vi segnalo i passaggi più rilevanti. In due in moto, genitore responsabile, è già il titolo che viene dato sul Sole 24 Ore. La legge comunitaria consente a chi ha 16 anni da oggi di trasportare passeggeri su ciclomotori, microcar, anche questo è un dettaglio di rilievo, e motocicli. È una buona notizia per i ragazzi, scrive Caprino, un po' meno forse per i genitori. Perché? Perché questa modifica al codice della strada legalizza una pratica diffusa tra gli adolescenti, ma non solleva da responsabilità i genitori. Quindi, in caso di incidente, siete autorizzati naturalmente a fare gli scongiuri, sono tenuti a risarcire anche quei danni riportati dal passeggero che per varie ragioni possono non essere coperti da assicurazione. Per il resto, poi, la legge contiene altre disposizioni minori che superano una procedura infrazione in un caso di precontenzioso aperti dalla Unione Europea. Allora, le condizioni per questo trasporto a 16 anni di un passeggero sul motorino, una microcar, un motociclo, sono riassunte così sul Sole 24 Ore di oggi. Tutti i giornali naturalmente hanno questa notizia. Sto leggendo dal nostro giornale, dal Sole 24 Ore, perché è molto puntuale appunto la disamina del collega Caprino. Allora, l'età non deve comunque essere inferiore ai 16 anni, quindi della fascia 14-15 anni resta esclusa. Il veicolo deve essere di una delle categorie guidabili con patenti conseguibili a 16 anni, quindi sostanzialmente motorino, microcar, moto 125. Non è possibile guidare una autovettura nemmeno se il ragazzo ha la licenza per la guida accompagnata, quella che si può avere a 17 anni avendo però un adulto a bordo che fa da istruttore. E poi, attenzione, il veicolo deve essere omologato per il trasporto dei passeggeri, quindi va verificato sul documento di circolazione il numero dei posti. Sui ciclomotori più vecchi generalmente non è possibile trasportare passeggeri perché il veicolo è omologato appunto solo per una persona, cioè per il conducente. Tutto questo sul Sole 24 Ore, naturalmente anche su altri giornali, molto puntuale come sempre Maurizio Caprino sulla materia del codice della strada. Una notizia invece, come diciamo qualche volta qui a Radio 24, che è un po' da radiofisco, ma è molto importante per tutti i professionisti, avvocati, commercialisti, tutti coloro che si occupano di tasse, soprattutto di imposte per quanto riguarda le imprese. L'abuso di diritto è entrato finalmente in vigore, perché è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non è ancora tecnicamente in vigore, ma sta per entrare in vigore il decreto legislativo che contiene le disposizioni sull'abuso di diritto. Abuso non equivale a evasione, lo segnalano oggi le pagine di Norme Tributi sul Sole 24 Ore. Non voglio trascinare tutti in una segnalazione, vi confermo solo che è molto importante questa novità, questa innovazione per tutto il mondo fiscale e anche per le imprese, perché l'abuso di diritto è stato uno dei temi più controversi in questi anni, è stato spesso utilizzato anche per avviare dei contenziosi, delle contestazioni da parte del fisco nei confronti delle imprese, contestazioni anche molto pesanti. Vi segnalo un po' su tutti i giornali le indicazioni per quanto riguarda questa vicenda della adottabilità o meno del figlio di Martina Levato e di Alex Böttcher, che sono appunto la coppia condannata per aver sfregiato con l'acido gli ex della stessa Martina. Sul Corriere della Sera una intervista con l'ex presidente del tribunale del tribunale per i minorenni di Milano, Livia Pomodoro, che spiega: è una scelta interlocutoria quella che è stata presa ieri, cioè quella di dire Martina Levato potrà vedere il bambino, ma nello stesso tempo è stata avviata il procedimento di adottabilità. Spero che ora si decida nel tempo più breve, ma secondo il giudizio di appunto Livia Pomodoro, che ha diretto per molti anni il Tribunale per i minorenni di Milano, non c'era una alternativa. Il tribunale le segnala Elisabetta Andreis nell'intervistarla oggi sul Corriere della Sera, prende tempo, non ha nemmeno deciso dove andrà il neonato, e spiega Livia Pomodoro: è stato nominato un tutore che deciderà sulla sua collocazione. Questo tutore è per il momento il comune, spero nel giro di pochissimo tempo, è una prassi nelle procedure di adottabilità. E intanto il bambino avrà tutta l'assistenza, non solo sanitaria, di cui ha bisogno. Ogni possibilità per i prossimi mesi o anni è aperta, chiede Elisabetta Andreis, dice: in attesa che l'istruttoria faccia il suo corso sono aperte varie ipotesi. Il piccolo potrebbe stare in comunità, la mamma ovviamente sarà in carcere, oppure il piccolo potrebbe essere dai nonni, oppure in una coppia, in una casa famiglia ci potrebbe essere un affidamento, oppure no, insomma questa sarà parte del procedimento di adottabilità. Intanto ci sono questi permessi di vedere il bambino. Spiega anche poi Claudio Mencacci, sempre sul Corriere della Sera, lo psichiatra Claudio Mencacci, che questo divieto di allattamento che è stato deciso è per evitare l'attaccamento, cioè essendoci un procedimento di adottabilità che quindi porterebbe ad affidare il bambino a tutt'altra famiglia, senza legami appunto più con la donna che lo ha partorito, ebbene questa misura di evitare l'allattamento è proprio presa a tutela di diciamo soprattutto del bambino, che poi dovrebbe essere il centro, diciamo, di tutti questi discorsi, di tutti questi ragionamenti. Sul caso di Martina Levato e del bambino partorito da Martina Levato, naturalmente un po' tutti i giornali rientrano. Vi voglio segnalare però una cosa che riguarda sempre qui non più un bambino ma un adolescente, una notizia che ho trovato sul Secolo XIX oggi in edicola nelle pagine locali. Schiaffo al figlio capriccioso, padre denunciato. Il giorno di Ferragosto si trasforma in un incubo per una famiglia di Pegli. La vicenda finisce in procura. Una lite sotto casa, i vicini chiamano i carabinieri, la missione del genitore che dice appunto gli ho dato uno schiaffo perché pretendeva di uscire da solo e non di andare a fare il pranzo di Ferragosto dai parenti, il figlio di 12 anni e insomma pare avere assunto un atteggiamento abbastanza capriccioso finché il padre è sbottato e gli ha dato uno schiaffo. E questa vicenda naturalmente è un po' si ripete più volte, diciamo, si ripete spesso. Il padre a questo punto è stato denunciato per abuso dei mezzi di corruzione. Poi vedremo, di solito in realtà i giudici sono abbastanza comprensivi nel valutare appunto le circostanze. Quindi non si tratta di maltrattamenti, non si tratterebbe di maltrattamenti, ma di una cosa episodica. Intanto è tornata Irene Zerbini, a cui tra pochissimo ridaremo la linea, ma siccome lei ci vuole parlare, come è stato annunciato, di sprechi alimentari, allora io voglio segnalarle un articolo che compare oggi sulla Stampa e che riguarda, diciamo, gli sprechi alimentari ma anche un po' le nostre abitudini culturali. L'articolo è già in prima pagina, lo trovate già sulla prima pagina della Stampa, e dice: c'è la crisi ma noi ci vergogniamo della doggy bag, noi italiani. Cos'è la doggy bag? Questo, l'usanza appunto di farsi dare gli avanzi del cibo quando si va al ristorante se non si riesce a consumare interamente la propria porzione. Secondo un sondaggio della Coldiretti, soltanto un italiano su 5 si porta a casa gli avanzi del ristorante. Nel dettaglio poi scopriamo dalle pagine interne appunto che un italiano su 4, cioè mentre solo il 20% di noi si fa dare questa doggy bag, cioè il sacchettino, insomma la scatoletta con l'avanzo, invece un italiano su 4 è contrario addirittura all'idea di chiederlo, sostenendo che si tratta di una prassi da maleducati oppure da poveracci, e comunque definendola volgare. Piuttosto elevata comunque sarebbe la percentuale di noi italiani che finisce tutto quello che c'è nel piatto, si parla di un 28%, quindi quasi uno su tre. Ma soprattutto, e questo interessa Irene, il 60% di noi ha ridotto gli sprechi alimentari in casa, in media a 76 kg di cibo l'anno a testa. 76 kg è la quantità comunque che continuiamo a buttare nella spazzatura. E rimane sostanziosa, anche perché mentre si gonfia l'immondizia si gonfiano anche le file davanti alla mensa dei poveri, cioè è questo il paradosso della società italiana. Comunque è vero che abbiamo ridotto gli sprechi, nel senso che sembra ci sia un aumento di consapevolezza su questo ambito. Poi sulla doggy bag sarebbe interessante sentire gli ascoltatori, chi si vergogna e chi no. È una pratica assolutamente sdoganata negli altri paesi, soprattutto per pizza, questo tipo di cibo che a volte i bambini non finiscono, ne assaggiano una fetta e poi non la... E si porta a casa e diventa il pranzo del giorno dopo. Poi io non so se tu, Mauro, lo trovi una come hanno detto, una cosa da maleducati o da poveracci o semplicemente un gesto di economia domestica razionale. Secondo me, io trovo che questo sondaggio fotografi abbastanza bene il comportamento medio, e mi ci riconosco pienamente, sull'imbarazzo comunque di chiedere di portare a casa l'avanzo, solo se l'avanzo magari è molto consistente per qualche motivo. Se no lo fai chiedere al bambino, quella è una cosa che salva. Oppure è si spera che il bambino faccia abbastanza capricci in modo che lasciando gran parte di quanto ordinato nel piatto ci possa dare il destro per chiedere al doggy bag. No, ma poi si chiama doggy perché appunto con la scusa del cane si portava a casa, anche lì l'imbarazzo era segnalato. Vedremo ora, cosa ti dicono gli ascoltatori. Esatto, ne parleremo nel corso di Spunti di Vista. Noi ora diamo la linea al notiziario, gli sms al 349-238-6666 e le telefonate alle 8:30 all'800 24 0024. Ciao Mauro Meazza, a domani. A domani.